Gli appunti è un dialogo tra un sfrattato e un amministratore. Dien che è una satira, insomma. Cioè l'amministratore che descrive Sciona che c'è canzone è un amministratore proprio di Spigiols. Cioè di quelli di noi mità. Un uomo del paese a un amministratore da manorenzia vuol fargli sapere che si è sfrattato e che di una casa dell'urgenza da spres di tanti dias di pazienza e donan lupi il mis de conferì di palà a futi popol eccellenza che sa creo lo duegno del paese de palà a futi popol eccellenza che sa creo lo duegno del paese lo proba entra a schiena basciara e picca folti il corpo e l'emozio sua eccellenza te un'espressione farara e faccia arruganta ti amministrarò buonas dias futi popol eccellenza fa io sono anch'i peco m'hanno sfrattat e volgessi da manà una clemenza trobimo gli occhi dunghimo un furat se in tanta spalzonas an famiglia i dat che il carremo aveu gittat tenc derra russa fils immobilia e onde mes ma trop desviat sua eccellenza salmira striginat an poltrona lo trabai che fai smassacrant diu di vos altros asfratat sumirant fa propria ir a mas politiz e mangiat per risolvi la cosa con conve una spultinare organizzat fa pulche du trenda e gli agosta gran praglie e lo problema es stat mussigat pulche du trenda e gli agosta gran praglie lo problema es stat mussigat e tra l'angion il vi la tua questio creuma se sconcluiranno non digistio ambuffats di sirivan ragatant baienti cantanti mangiant ambuffats di sirivan ragagliant patteggiant baienti irrutant asfratats la vostra situazione è scomplicata e vuol trattare a ma diplomazia per risolvi la situazione ludia mira avem fet una mesa paragliara avem mangiati finza polpagliara crema a ma prebamurisco assai piccant che sacrifici la questione vostra vol bel mastigara e a mastiga petozze o massatanz la questione vostra vol bel mastigara e a mastiga lo polpi quanti noi stanta ben quiti ma io pel popolo comunque fa qualsiasi sacrifici creo ma che ma mangia arriva tambe Gesù bambino ai l'altro dì addio creieva che morissi la stomac ma salvati lo bicarbonato e la magnesia bisurata a San Pellegrino e quella poi sempre ha fatto io però despres di tanta strangoglia una giusta conclusione la ventrubara la casa popolare vangarà senza parzialità si consegnara per concluire a casa nigra, distribuirà tots com convé, cara contenti sigarà, avvenza il catide di viribè, cara contenti sigarà, avvenza il catide di viribè. Una casa la donem al barracat, segons lo punteggio che sa troba, e un'altra la donem al rufianat, però te defe finta de sar proba. Un'altra la donem a rasfratat, che aven gitat amici del carré, e qualche altra la donem al benestant, al benestanti sì, che asci san troba due si sta mes be. Qualche altra la donem al benestant, che asci san troba due si sta mes be. E asparen che si careu contents, no vulguessi che vogliam anteu, ma mus baralliem pe vosaltros ja el valleu, no? Mirem si seu reconeixents i quan arriba el moment de votar. Avaltiu també tots els parents que futi popol sap administrar i és capaç de vos fer tots i contents. Futi popol sap administrar, futi popol vos fa tots i contents.